tra frasi che tu non ti aspetteresti mai. Sarà il treno delle sei che prenderò, e tutto ciò che voglio dirti.